Rispondi alle seguenti domande facendo una croce sulla risposta giusta. 1. Omar e Ahmed sono A. Due valenti artefici. B. Due pellegrini del deserto. C. Due anziani fratelli. D. Due ricchi mercanti arabi. 2. Chi chiamò Omar per costruire il monumento? A. Alcuni esperti artigiani. B. Dei soldati valorosi. C. Dei robusti operai. D. Degli orefici molto abili. 3. Omar ordinò di tagliare l'obelisco A e di far scolpire sopra il suo nome. B. E di farlo innalzare dopo la sua morte. C. Prima che le carovane lo scorgessero. D. Poi chiamò gli artigiani. 4. Il vento A. Faceva dondolare il monumento. B. Batteva con forza contro il monumento. C. Era riuscito a rompere gli spigoli dell'obelisco. D. Oscurava l'immagine di Omar sull'obelisco. 5. Hamed fa costruire un pozzo. A. Così i pellegrini possono fermarsi a contemplare il monumento. B. Fa costruire un pozzo per vendere acqua e cibo e diventare ricco. C. Fa costruire un pozzo dove i pellegrini e i dromedari possono riposarsi e bere. D. Fa costruire un pozzo perché le carovane lo possano vedere da lontano. 6. Dove si trova il pozzo di Hamed? A. Ai piedi di una montagna. B. Poco lontano dall'obelisco. C. Vicino ad un mercato. D. In Egitto. 7. Da dove sgorga l'acqua? A. Da una speciale roccia di marmo. B. Dall'effigie sull'obelisco. C. Dallo scavo del pozzo. D. Dall'ombra delle palme. 8. Ahmed A. Mise attorno al pozzo tanti tavoli per mangiare. B. Fece costruire tanti letti così i pellegrini potevano riposare. C. Fece mettere tante sedie per fare riposare gli operai che costruivano il pozzo. D. Circondò il suo pozzo di panchine in modo che i pellegrini stanchi potessero riposarsi. 9. Le palme offrono A. Il fogliame come cibo ai dromedari. B. Qualche frutto da mangiare ai pellegrini. C. Un saporito succo di palma che toglie la sete. D. Un sostegno per i dromedari stanchi di camminare. 10. I pellegrini A. Desiderano arrivare al pozzo di Ahmed. B. Sono arrabbiati perché Omar ha costruito un monumento che non serve a niente. C. Sono dispiaciuti perché Omar e Ahmed stanno diventando vecchi. D. Osservano con ammirazione l'obelisco di Omar. 11. Le persone si ricordano di Ahmed A. Perché egli voleva bene agli uomini. B. Perché egli era ricco. C. Perché il suo pozzo era utile. D. Perché egli dava da mangiare a tutte le persone. 12. Il monumento di Omar A. Non servì a nulla e non venne gradito. B. Venne ricordato da tutti per sempre. C. Diventò un posto importante per tutti. D. Diventò un luogo dove tutta la gente si incontrava. 13. La gente pensa A. Che Omar deve nascondersi. B. Che Omar verrà sempre ricordato. C. Che Omar deve essere ricoperto di sabbia. D. Che Omar può essere dimenticato perché è stato egoista. 14. Secondo te, il brano che hai letto è tratto da A. Un libro di geografia sull'Arabia. B. Un libro di storie per bambini. C. Un libro sugli animali. di un romanzo.